Pronto Maria Luisa? Ciao Matteo, ciao. Sei in gambissima, mi piace molto ascoltarti. Ti ringrazio, grazie mille Maria Luisa. Senti, allora, raccontami qual è questo oggetto, una maglietta, giusto? È una maglietta, è una vecchia sbrindellata t-shirt, una magliettina che ho preso all'American Center a Parigi quando ci abitavo alle fine degli anni 70. Che cosa? All'American? Center, dove andavo a fare danza, jazz, nero. Tu hai vissuto a Parigi? Sì, sì, 5 anni. Per lavoro, per piacere, per mio amore? Marito era lì, okay, mio marito okay, era lì okay. E io andavo, facevo anche queste cose. E questa magliettina l'ho presa perché andavo a fare questo. Avevo un magnifico, fantastico insegnante di jazz negro. E c'era negro. Un grafico mi piace che ci tieni proprio a sottolineare musica e musica negra. Sì, molto, molto viscerale, faceva molto bene. Liberatoria. Okay, ci siamo capiti. Senti, tu la tieni e la metti, Maria Luisa? Sì, la metto ancora. Devo dire che c'è su riprende un quadro famoso che non so che sia. Da una parte una Madame Pompadour e dall'altra l'America che si toccano i pezzoli. Non so quale quadro riprendono. Comunque, me la metto sempre qua. La mettevo sempre allora, me la continuo a mettere quando faccio esercizi, yoga, quello che va, eccetera. Non posso pensare di non averla. Sono ritornata al centro, non c'è più il centro. Quindi quella rimane come unica testimonianza. Sì, è un mito. Maria Luisa, ti ringrazio moltissimo. Buona giornata. Ciao, sei gambissima. Grazie. E tra l'altro abbiamo deciso che negro non è un'offesa, giusto Maria Luisa? L'abbiamo deciso insieme. Negro. Benissimo, ti abbraccio. Grazie. Mai penserei una cosa del genere. Grazie mille, ciao. Grazie.